penso che dobbiamo tenere non due occhi aperti, ma tre, no? Anche il terzo occhio di fronte al computer, che spesso è lo strumento attraverso cui oggi truffe evidenti di questo tipo vengono veicolate. La prudenza, la conferma delle società a cui inviamo dati, per esempio anche il famoso phishing bancario, insomma, a noi sembrano un po' scontati perché siamo buoni utilizzatori dei mezzi tecnologici. Ricordiamoci però che ci sono persone che usano meno le email, usano meno il web e potrebbero cascare in un tranello di questo tipo. Allora, do per scontato, come senti, il fatto che sia abbastanza una truffa, perché non ci si propone a livello societario in queste maniere, non siamo riusciti a capire dove abbiano preso il tuo indirizzo di posta, e questo è il primo segnale. E secondo, penso, confermamelo se sbaglio, però che non rispondano al telefono sempre questi signori, per cui questo è già un altro sì, sintomo. Abbiamo avuto difficoltà noi stessi, abbiamo provato più volte, anche perché quando si chiama da un telefono che poi di cui non appare il numero, magari si ha maggiore difficoltà.